destra, senza pensieri, solo lei per la testa. Siamo solo noi, questo mondo ci aspetta. Manchi solo tu per un'estate perfetta. Prendila per mano e se non sai dove andare, basta una parola e tutto sarà speciale. Voglio addormentarmi insieme a te sulla sabbia, svegliarci con il sole che risplende nell'acqua. Perché da quando ci sei tu, la vita è come un tuffo in mare aperto. Se tu sei qui rido di più e tutto il resto mi sembra meno freddo. Io, te e questo cielo, noi qui in paradiso blu. Perché riesco a vivere di più da quando ci sei tu. Suona il ritmo della vacanza. Siamo solo noi, la nostra estate che avanza. Sulla sabbia bianca disegniamo due nomi che il tramonto ricorderà. Ma non ci basterà l'estate che sarà. Perché da quando